benvenuti a tutti. Puntata numero 18 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Ci avviciniamo ai playoff e a questo punto in molti tirano i remi in barca oppure si riposano in vista della postseason, eccetto chi è ancora ovviamente in corsa per l'ottavo posto. Resta solo da vedere quelli che saranno gli accoppiamenti in tabellone e nella Lega si sta lavorando per questo. Tre le squadre che se la stanno lottando ad ovest sono Denver, Portland e Dallas principalmente. Ad est la situazione ravvicinata è per sette squadre. Dal quinto posto in giù le distanze sono davvero minime. Possiamo però intanto dire che la delusione dell'anno, almeno per me, sono stati i New York Knicks. Erroneamente avevo guardato troppo positivamente al loro mercato estivo e probabilmente anche all'eventuale evoluzione di Kristaps Porzingis. In realtà il lettone si è decisamente perso tra le bizze di Melo e Rose, la deludente stagione di Noah, i consueti dissapori e tensioni che attraversano il Madison Square Garden. Nella prima puntata avevo pronosticato New York e Chicago come due possibili sorprese. Nessun pronostico è stato mai più errato. Mi sta quindi pensiero provare a pronunciarmi per i playoff, visto questo precedente. Iniziamo però con un po' di mashup settimanale, partendo da mercoledì 15 marzo. Dallas batte Washington, che in questa settimana ha un po' rallentato rispetto al secondo posto ad est che per un attimo aveva raggiunto la settimana precedente. Lo fa grazie ad un costantissimo Harrison Barnes, potenzialmente in lizza per vincere a mio avviso il premio di giocatore più migliorato della stagione. Da segnalare poi 39 punti di Paul George nella vittoria di Indiana su Charlotte, i 33 punti di Dragic nella vittoria di Miami sui Pelicans, i 36 di Lillard con Portland che batte San Antonio, un po' in flessione in questo momento malgrado i 34 punti di Kawhi Leonard. Occhio a Lou Williams per Houston, parte dalla panchina, mette 7 triple, chiude con 30 punti e Houston batte la sua ex squadra, Los Angeles Lakers, anche grazie ad un James Harden ancora in tripla doppia. 16 marzo, solita tripla doppia per Russell Westbrook, da 24 punti, 10 rimbalzi e 16 assist nella vittoria sui Raptors. Solita notte da fenomeno anche per LeBron James, che chiude con 33 punti, 10 rimbalzi e 6 assist nella vittoria di Cleveland sui lanciatissimi Utah Jazz. Golden State batte Orlando con 29 punti di Klay Thompson con 5 triple e 25 di Curry con 2 su 7 da dietro l'arco. 17 marzo, Harden chiude con 41 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, ma Houston perde dai Pelicans, privi di DeMarcus Cousins, con un Anthony Davis da 24 punti e 15 rimbalzi e 30 punti per Solomon Hill. Vince anche Miami su Minnesota, malgrado i 31 punti e gli 11 rimbalzi di Karl Anthony Towns, grazie però ai 23 punti e 14 rimbalzi di Hassan Whiteside. Per Goran Dragic, l'uomo che tiene in mano la squadra a Miami, 19 punti e 10 assist. Dall'altra parte è da segnalare i 20 punti di Ricky Rubio con 6 assist e anche i 26 punti di Andrew Wiggins. Discreta rissa poi nella notte scatenata da signor Swaggy P nella sconfitta in casa dei Lakers contro i Milwaukee Bucks. Tra questi, 26 punti e 8 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo. 18 marzo, per due rimbalzi Westbrook cicca la tripla doppia, chiudendo comunque con 28 punti e 10 assist nella vittoria di OKC sui Sacramento Kings. Cleveland perde invece contro i Clippers con LeBron e Irving al riposo. Golden State batte i Bucks con 6 su 8 da 3 di Stephen Curry, che chiude con 28 punti. Altra incredibile tripla doppia di Harden con 40 punti, 10 rimbalzi e 10 assist nella vittoria di Houston su Denver. 19 marzo, Cleveland gioca a Los Angeles, sponda Lakers e vince 125-120. Ci sono 46 punti per Kyrie Irving con 6 triple, non da meno LeBron James con 34 punti e 21 punti e 15 rimbalzi per un Kevin Love in 26 minuti di impiego. Dall'altra parte, da citare 40 punti di D'Angelo Russell, super nottata ancora per Damian Lillard, nella vittoria di Portland su Miami, chiudendo con 49 punti e 9 su 12 da 3 punti. Minnesota, guidata da Towns e Wiggins, perde però con i Pelicans. Per le Twin Towers ci sono 11 rimbalzi e 15 punti per DeMarcus Cousins, 12 rimbalzi e 28 punti per Anthony Davis, 22 punti anche per Jordan Crawford. 20 marzo, tre partitone nella notte. Si inizia con Golden State a Oklahoma City. Vittoria per i vice campioni per 111-95. Ci sono scintille in campo tra le due squadre, in particolare tra Westbrook e Curry. Russell Westbrook gioca la sua peggior partita da parecchio tempo a questa parte, tira con 4 su 16 dal campo in meno di 30 minuti, chiude con 15 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Dall'altra parte Steph praticamente segna solo da dietro l'arco e chiude con 7 su 12 da 3 punti, chiudendo anche con ovviamente 23 punti. 7 triple anche per Klay Thompson, che chiude però con 34 punti. Boston sembra chiudere la questione rispetto al secondo posto ad est, sconfiggendo Washington in quella che è oramai una delle rivalità più interessanti dell'NBA. partite sempre ruvide tra queste due squadre. Hanno la meglio, come detto, i Celtics questa volta, con una Isaiah Thomas da 25 punti, ma c'è anche un Avery Bradley da 20 punti, 16 punti a testa anche per Horford e Crowder. Dall'altra parte 16 per John Wall, 19 per Bradley Beal. Stessa notte e Harden manda in paradiso Houston, segnando in layup il coast-to-coast decisivo a poco più di 2 secondi dalla fine. Vittoria su Denver per 125-124. Evidentemente pessima gestione di Denver in quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo probabile possesso della partita. Non è andata così perché poi Harden appunto si è preso il rimbalzo, ha fatto tutto il campo e ha segnato il canestro allo scadere praticamente, con 2 secondi sul cronometro. 39 punti, 7 rimbalzi e 11 assist per il barbone. Periodo statisticamente pazzesco per lui. 21 marzo, nella sfida vinta dai Raptors per 122-120 sui Chicago Bulls, dopo un tempo supplementare tra l'altro, da segnalare una scazzottata principalmente tra Lopez e Ibaka. L'ennesima rissa nella Lega degli ultimi giorni, evidentemente giorni un po' nervosi. 37 punti per Jimmy Butler, traiettore dell'Illinois, e finalmente una prova convincente anche per Rondo, con 24 punti e 8 assist. 42 punti dall'altra parte per un super DeMar DeRozan. Ibaka, in appena 26 minuti, chiude con 16 punti e 6 rimbalzi. Alla fine dei regolamentari, DeRozan aveva in mano il tiro libero del vantaggio dopo aver segnato la parità con un canestro e fallo. Il libero però lo sbaglia. Ci penserà comunque lui stesso nell'ultimo minuto di overtime a decidere la partita con un paio di giocate. Insensata sconfitta nella notte di 2 punti per i Detroit Pistons contro i derelitti Nets, anche perché i Pistons sono in piena corsa playoff ad est. La vince Brook Lopez con un buzzer beater, chiudendo anche con 29 punti. Cousins ne mette invece 41 con 17 rimbalzi nella vittoria dei Pelicans sui Memphis Grizzlies. Anthony Davis stavolta fa il secondo violino, chiudendo con 19 punti e 13 rimbalzi. Vincono poi sia i Warriors sui Dallas Mavericks che gli Spurs sui Minnesota Timberwolves, mentre rispetto alla corsa playoff, Milwaukee supera Portland malgrado una grandissima nottata all'ennesima per Damian Lillard con 31 punti, grazie però ad un Chris Middleton da 26 punti e 22 punti per Giannis Antetokounmpo. Diamo un piccolo sguardo alle classifiche aggiornate ad oggi. Come al solito vi ricordo che sto parlando ed è mercoledì 22 marzo. Ad est al momento l'ottavo posto è dei Miami Heat, seppur tamponati da Detroit e Chicago. Per la verità, volendo, una flebile speranza potrebbe ancora averla gli Charlotte Hornets, almeno sulla carta, per rientrare in corsa. Malgrado questo, prevedibilmente a questo punto i Bulls a mio avviso resteranno fuori anche quest'anno, e lo dico principalmente per il livello di gioco espresso recentemente. Mentre sopra Miami è di stretta attualità anche la posizione di Milwaukee, che al momento è al settimo posto, Indiana, che al momento è al sesto posto, Atlanta, che al momento è al quinto posto. Insomma, a destra la sfida si divide in due, con le prime quattro tutte piuttosto vicine, anche se apparentemente c'è una sfida aperta per il primo posto di conference tra Cleveland e Boston. Per il terzo posto invece la sfida diretta tra Washington e Toronto, che sono praticamente appaiate. In una situazione del genere è impossibile in questo momento fare una previsione di accoppiamenti. Nessuna posizione appare certa, anche se alla fine io scommetterei su questo ordine tra le prime quattro: Cleveland, Boston, Toronto, Washington. Situazione un po' più tranquilla ad ovest, dove Golden State sembra proiettata verso il primo posto a scapito dei San Antonio Spurs, che sono sempre secondi, comunque ben saldi in questa posizione. Come lo scorso anno, questa sembra essere la finale di conference più prevedibile, però attenzione a Houston, che è terza nella classifica della Lega e saldamente terza a livello di conference. Stagione da incorniciare anche per Utah, altra a mio avviso sorpresa effettiva, sia per concretezza che per continuità, che si sta giocando tra l'altro il quarto posto di conference con i Los Angeles Clippers, che sono in ripresa dopo il rientro effettivo di Chris Paul. Dietro sono praticamente appaiate OKC e Memphis. Se i Grizzlies sembrano in netta fase di calo rispetto alla prima metà di stagione, OKC con Westbrook può essere un'assoluta mina vagante a livello di primo turno di playoff, soprattutto se dovesse toccare agli Spurs, finendo settima. Per l'ultima posizione disponibile si allottano principalmente Denver e Portland, quest'ultimi con un Damian Lillard infuocato nelle ultime settimane. Tecnicamente ancora in corsa anche Mavericks e Pelicans. Piccola nota sulle peggiori della stagione: lasciando perdere per un attimo Brooklyn, che probabilmente potrebbe in questo momento perdere anche con una squadra dei D-League, la stagione a mio avviso più agghiacciante e la più deludente dell'anno è quella dei Los Angeles Lakers, penultima per record nella Lega. Lo sappiamo, a Los Angeles sono in piena ricostruzione, ma soprattutto dopo l'avvio di stagione si poteva, anzi si doveva sperare in qualcosina di più. È chiaro che l'idea di una scelta altissima al prossimo draft abbia allettato nuovamente e non poco la dirigenza gialloviola, tanto da tirare clamorosamente i remi in barca dopo l'All-Star Game in maniera piuttosto netta, a mio avviso, talvolta offrendo spettacoli osceni, errori grossolani, partite imbarazzanti. Vediamo quindi che succede al draft. Aspettando la maturazione di Ingram, l'ulteriore crescita di D'Angelo Russell e le conferme eventuali di Randall e Clarkson, ammesso che qualcuno di questi quattro non debba lasciare Los Angeles, e chissà che l'arrivo di Magic Johnson ai vertici della società non attiri qualche star verso quella che storicamente è la prima squadra losangelina. Auguriamocelo, principalmente per una franchigia tanto blasonata e per un mercato tra l'altro tra i più importanti della Lega. Nel frattempo però grandi polemiche tra il commissioner Adam Silver, LeBron James e altri giocatori nella Lega rispetto alla scelta di tenere a riposo le star durante le partite in prime time nelle TV nazionali. Silver ha minacciato sanzioni, a mio avviso piuttosto insensate. È vero che a vedere certe partite con le star a riposo è piuttosto noioso e quindi anche dannoso a livello di diritti televisivi e di immagine che la Lega dà all'esterno. Contemporaneamente però è giusto anche ricordare che 82 partite in stagione sono veramente tante e che, considerando anche questi riposi forzati, si potrebbe davvero pensare a snellire un pochino la stagione stessa, che inevitabilmente passa a periodi di interesse nettamente in ribasso, tra l'altro come questo a mio avviso. A tutela di Silver però è pure vero che un tempo le partite erano sempre 82 e che gran parte delle star non ne saltavano neanche una, pur giocandosi il campionato in prospettiva titolo. Pensiamo ad esempio a gente come John Stockton o Michael Jordan. La verità è che, anche se è dovere di cronaca riportare questo lato strettamente legato alla questione show, l'attesa verso i playoff, sia per interesse di cronaca sia per superare l'impasse del post All-Star Game, che è un qualcosa di piuttosto ciclico a livello NBA, mi porta a bypassare ulteriori commenti o analisi sulla questione, anche perché se non c'è l'intenzione di far giocare di meno, una soluzione al libero arbitrio dei giocatori o dei coach rispetto al riposo in certe partite non può esserci, a mio avviso. Bollettino infortuni brevemente: Dwayne Wade si è rotto un gomito e saluta così la stagione, e chissà, probabilmente anche i Bulls salutano le prospettive playoff, ammesso che ci credessero ancora. Intervento previsto al ginocchio sinistro anche per Chandler Parsons, altra carriera sacrificata alla sfortuna probabilmente. Bollettino dei rumors invece: si vocifera interessamento da parte di alcune squadre in prospettiva playoff per Carlos Boozer, attualmente in Cina. Mentre questo non è un rumors, Larry Sanders ha ufficialmente firmato con Cleveland come sostituto dello sfortunato ed infortunato Andrew Bogut. I Lakers hanno fatto fuori dal roster da impiegare per le ultime partite i due veterani Luol Deng e Timofey Mozgov, questo per dare spazio ulteriore ai loro giovani, vacanze quindi anticipate per loro. Infine, nuovo capitolo dell'odissea di Marcus Cousins. Pare che Boogie abbia detto all'amico John Wall che il suo desiderio è quello di accasarsi a Washington per giocare nei Wizards la prossima stagione, alla faccia del progetto Twin Towers. Andiamo avanti. Anche nell'NBA si fa, in quest'ultimo periodo, un gran parlare sulla struttura sferica o meno del globo terrestre. Sembra una roba talmente bizzarra da essere più che scontata, ma merita, a mio avviso, un approfondimento. Qualche mese fa, il campione del mondo Kyrie Irving ha preso ufficialmente e pubblicamente posizione sull'argomento in un podcast radiofonico, dichiarando al mondo intero che secondo lui la Terra è piatta e che siamo tutti vittime di un lavaggio del cervello fatto ad hoc. Quasi a voler rincarare la dose, qualche giorno dopo ha pure confessato di essere in grado di controllare i suoi sogni, il che appare bizzarro forse al pari delle sue teorie sul presunto globo terrestre, ma effettivamente non lo è. In termine tecnico si parla di sogni lucidi. La gran parte delle persone riceve la capacità di sfruttare e direzionare questi come un dono innato, ma con un po' di esercizio mirato pare che ci possiamo arrivare tutti. Personalmente ho provato ad esercitarmi con due tecniche ridicole qualche anno fa. Il risultato che ho ottenuto è: non solo non controllo i miei sogni, ma da allora li dimentico proprio di netto. Quindi beato Kyrie Irving che riesce. Detto questo, dicevamo, la terra piatta. Accanto a Irving in questi giorni è arrivata anche l'illustrissima opinione di un altro intellettuale del gioco, Shaquille O'Neal, tra l'altro legato a una vena comica anche in diretta piuttosto spiccata, ultimamente opinionista di valore oltre che leggenda del gioco. Lo ha dichiarato con estrema sicurezza nel suo podcast The Big Podcast with Shaq. Lui ha detto: Ci sono tre modi di manipolare la mente: attraverso quello che leggi, attraverso quello che vedi ed attraverso quello che senti. A scuola la prima cosa che ti insegnano è che Colombo ha scoperto l'America. Ma cosa è successo davvero? Non ha scoperto l'America. Ho guidato da un lato all'altro dell'America e diavolo, per me è piatta. Quindi l'opinione di Shaquille O'Neal si basa su un'esperienza diretta e prosegue: ho guidato dalla Florida alla California e per me la terra è piatta. Secondo la mentalità comune la Cina è sotto di noi, ma non è così, la terra è piatta. Quindi una serie di prove raccolte sul campo dallo scienziato cospiratore Shaquille O'Neal, forse quindi ancora più profonde di quelle che il visionario Kyrie Irving aveva dichiarato, dicendo: la storia è la storia, è successa molto prima di noi e continuerà a succedere dopo che ce ne saremo andati, ma in qualche modo torna sempre a ripetersi. È pazzesca la quantità di informazioni che ci sono a disposizione, è tutto qui davanti ai nostri occhi e loro ci mentono. Quello che mi è stato insegnato è che la terra è rotonda, ma se davvero pensate al paesaggio che ci circonda mentre viaggiamo, davvero riuscite a immaginarci mentre ruotiamo attorno al Sole e tutti i pianeti si allineano in specifiche date rimanendo perpendicolari e tutte queste cose succedono con questi pianeti? Una roba pazzesca, ve l'avevo detto. Poco prima, tra l'altro, si era anche dichiarato pure agli alieni, raccontando come spesso li abbia attesi per farsi portare via da loro. Ho visto abbastanza degli umani per dirvi come sono fatti, ha detto nello stesso podcast. Ora, noi siamo qui tutti che ci scherziamo e che stiamo ridendo, ma sta storia della terra piatta sta prendendo piede di brutto online tra i teorici della cospirazione. Io personalmente ne sentii parlare più o meno un anno fa a cena con degli amici. Mi raccontavano come un nostro conoscente ci fosse rimasto letteralmente sotto a questa teoria, tanto da non dormire più la notte, stando sveglio per aspettare l'alba tutte le mattine per appuntarsi delle cose oscure che avrebbero confermato la sua teoria in base a dei libri o a delle pagine Facebook che già diffondevano video sulla questione. Guardando in rete si scopre che tale professionista della cospirazione di nome Eric Dubai ha fatto uscire un libretto di 35 pagine, quindi alla portata di tutti, dove presenta 200 differenti motivi per cui la Terra sarebbe piatta. Interessante tra l'altro capire che né Shaq né Kyrie Irving lo hanno letto, malgrado il numero irrisorio di pagine, visto che le loro motivazioni si basano su esperienze, per così dire, di vita vissuta, come appunto i viaggi in auto o in aereo, e questa cosa a mio avviso è obiettivamente super comica. L'anarchico vegano Dubai, già noto per illuminanti teorie sul Vaticano, sull'11 settembre e altri must del mondo del cospirazionismo, ci parla di come fotograficamente non sia mai visibile dalla Terra un minimo di inclinazione sferica e che la sfericità del pianeta sia visibile solo da foto della NASA, che ovviamente sarebbero modificate ad hoc per farci vivere in una menzogna totale. A suo dire, addirittura nessuno tra i grandi architetti e ingegneri della storia ha mai tenuto conto nei loro progetti della sfericità della Terra. Esemplificativa da questo punto di vista pare la progettazione del canale di Suez. Si dice 100 miglia di canale artificiale che non hanno mai tenuto conto della sfericità della superficie e per questo la sfericità della superficie è da dedursi inesistente. Potremmo anche andare avanti, ma è sufficiente a mio avviso dire che, limitando le teorie di Dubai ad un decalogo essenziale, questo risulta totalmente scollegato da ogni logica o legge fisica studiabile a livello elementare. Certo, si può dire che anche la fisica stessa sia una serie di false nozioni create ad arte per farci vivere nella menzogna e nell'ignoranza della piattezza del pianeta. La domanda che sorge spontanea però è: per quale ragione i governi vorrebbero mandare avanti questa straordinaria e clamorosa bugia? Soprattutto a che pro? Magari ce lo spiegheranno un giorno Shaquille O'Neal o Kyrie Irving o chissà chi altro che sbucherà prossimamente ad accodarsi dietro a questi due, in nome appunto di questa rinnovata teoria sul geocentrismo dell'universo. Benissimo. A mio avviso era molto interessante dare spazio alle teorie di Dubai e a come se la stanno bevendo i nostri amici Kyrie e Shaq. Detto questo vi saluto, ci sentiamo la settimana prossima, grazie a tutti per l'ascolto, un saluto da NBA Week. It's over.